Dios. cycles away. Tell you to hate, cause your life's a mess. Now that your head, now the gun's in sight. So take the west and rifles away. And you know when there's something wrong, you'll find out it won't be very long. But you know you've got it wrong. No way! Let's go! fotone era tagliato. Nella testa mille parole di circostanza e conforto. Nella testa mille parole di circostanza e conforto. Alla fine del giorno resto solo davanti a me stesso e concludo realizzando che avrei fatto molto più bella figura lasciando bianche queste pagine. Nella testa mille parole di circostanza e conforto. Un'altra giornata passata ad annullarmi, sono l'ennesima di una mente neutrale. Nella testa mille parole di circostanza e conforto. Hey, Todos los roto, La rumba dell'inter siamo arriva e represso lì a dove metà di lui a presto senta curar mette punta e poi mi staccar morire da quadrelli tua e represso a sala tea terrorista o vendirà murerà una bravo che dirà pure no ora terrorista terrorista hai in visita militatia argi geratuta estatu honetan argi paisatea era delitua argi geratuta etxai hauen alta bide bakarra borroka dela argi geratuta estatu honetan argi paisatea era delitua argi geratuta etxai hauen alta bide bakarra borroka dela. Artenik alendu zituzten eta lentzeko arriskuan berriz ere eman dieta egun gure indana elkartasunez antolatu zapalkuntzak etenik ez badu borbak ere ez dezurari aurre dinez kateak apurtu arte